È un evento che abbiamo organizzato come Camera Penale insieme ad Estrema Razio, col patrocinio del Consiglio dell'Ordine e anche del Comune, che ci ha dato anche una gran mano. Ma senza il Lions Club Borgo Panigale ed Emilia Ponente non ce l'avremmo fatta, perché è grazie al loro lavoro che abbiamo costruito questa cella che vedete qua per la prima volta, e quindi li ringrazio davvero di cuore. Così come ringrazio anche l'amministrazione penitenziaria che ci ha fornito il mobilio che troverete interno, che è lo stesso utilizzato dai detenuti nel carcere di Bologna. È un'occasione importante per toccare con mano quello che si prova a vivere dentro una cella. Tenete in considerazione anche che questa cella è una cella per due, probabilmente in futuro diventerà anche per tre, ma è una delle celle che francamente ho visto più grandi nelle volte in cui ho visitato delle carceri, più carceri, non parlo solo di Bologna. Quindi noi abbiamo cercato di riprodurre al meglio quello che è una cella del carcere di Bologna. Le misure sono esattamente le stesse, il mobilio è esattamente lo stesso. Tenete in considerazione che ci sono situazioni molto peggiori, dove in queste celle ci vivono anche più di 3-4 persone. Noi tra l'altro ad agosto abbiamo fatto una visita in carcere e ho i dati di agosto, parliamo di Bologna. Siamo quasi 800 detenuti, ci sono a Bologna, su una capienza di 457. La direttrice ci diceva che gli aumenti sono ormai importanti, solo nel mese di luglio ce ne sono stati 100. Tenete in considerazione anche che di questi 800, forse anche di più, un quarto sono in attesa di giudizio, ciò vuol dire che hanno un procedimento in corso, potrebbero ancora essere assolti. Ricordatevi sempre il principio di non colpevolezza, scolpito in Costituzione. Di queste persone solo il 20% lavora, anche questo è un grandissimo tema. Bisognerebbe lavorare sul lavoro per far sì che le persone che escono dal carcere in Italia, attualmente sono il 70% che tornano purtroppo a delinquere. Lavorando sul lavoro, per esempio, ci sono delle statistiche che chi lavora in carcere ed esce con una misura alternativa dal lavoro torna a delinquere nella misura del 2%. A voi le considerazioni. L'obiettivo ovviamente è sensibilizzare su queste drammatiche condizioni che ci sono in carcere. Come diceva Voltaire, il tasso di civiltà si misura proprio su come uno Stato fa stare i detenuti, le condizioni carcerarie. Ecco, diciamo che su questo abbiamo molto da fare e noi siamo qui proprio per questo.